Parliamo di un libro appena uscito, che è un libro che parla di musica, ma ovviamente non solo. Dice che era un bell'uomo, il genio di Dalla e Pallottino. Già dal titolo si capisce che si parla di due personaggi che hanno dato molto a tutto il nostro paese, in particolare alla nostra città Bologna. Un libro edito da Minerva Edizioni e scritto da Massimo Iondini, con cui siamo al telefono. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Massimo, non è la prima volta in realtà che parli di questo sodalizio, cioè tra Lucio Dalla e Paola Pallottino. Sì, era uscito un libro l'anno scorso. Questo libro è un po' la continuazione di quell'altro, ci sono degli arricchimenti e soprattutto diciamo che non potevo rinunciare all'occasione, al pretesto di uscire, di riuscire per il 50° di 4 marzo 43, ovvero Gesù Bambino, come Paola Pallottino tiene ancor più a sottolineare, perché quello era il titolo originario e quello poi è il titolo che comunque si è un po' tramandato, anche se poi la geniale scelta, banale e geniale nello stesso tempo, di Lucio di mettergli la propria data di nascita è stata poi, ha fatto la fortuna del pezzo e la fortuna anche di Lucio, perché è il personaggio di cui tutti sanno la data di nascita. E quindi insomma c'era la possibilità anche di fargli gli auguri, e in effetti anche oggi, che Lucio purtroppo ci ha lasciato da qualche anno, sì, quella data lì viene celebrata. Esatto. Ci sono tante cose che ti vorrei chiedere, a partire in realtà da due nomi di peso che firmano la prefazione e l'introduzione. La prefazione a cura di Pupi Avati e l'introduzione di Gianni Morandi. Pupi Avati, a cui vanno i nostri auguri. Sì, auguri. esatto. Che ha avuto, appunto, come sappiamo, un problema alle mani con appunto un lavoro, un incidente domestico, chiamiamolo così. Agricolo domestico, esatto. E Pupi Avati nella sua prefazione racconta dell'invidia che aveva verso Lucio Dalla. Certo, perché Pupi Avati era un bravo clarinettista, lui si sminuisce adesso, ma se era nella Reno Dixieland Jazz Band vuol dire che ci sapeva fare con lo strumento. Se non che a un certo momento gli è arrivato come secondo clarinetto Lucio Dalla, che per i primi momenti faceva il suo ruolo di secondo clarinetto, poi dopo man mano ha cominciato a esplodere con la sua bravura. I primi assoli, questo lo racconta appunto Pupi, i primi assoli, gli applausi sempre più a scena aperta, questi assoli intercalati da Boschette, perché Lucio, non sapendo una parola d'inglese già allora e poi anche dopo, quando cantavano degli standard jazz lui suonava e poi cantava. L'esempio è per esempio Summertime, che è appena uscito, tra l'altro si può ascoltare nel disco degli Idoli, che è appena stato pubblicato, un doppio CD interessantissimo, uscito 15 sì, giorni sì, fa. Ne abbiamo parlato. Di Summertime lui diceva solo Summertime, e il resto era tutto il suo inglese maccheronico, straordinario sketch Da più grande cantante solo italiano e non solo. E quindi Pupi dovette gioco forza retrocedere, perché la bravura di Lucio, che non aveva studiato ma aveva la musica nel sangue, gli bastava mettere le mani su uno strumento per saperlo suonare quasi subito, e era debordante, per cui Pupi Avati ha deciso che a quel punto sarebbe stato meglio per lui dedicarsi totalmente alla regia. Anche lui ha aiutato peraltro nelle prime esperienze cinematografiche dallo stesso uomo di fiducia che io intervisto nel libro, un'intervista che ritengo molto preziosa perché è rarissima, cioè Umberto Tobia Righi, conosciutissimo a Bologna. Anche ovviamente nell'introduzione di Gianni Morandi si ricostruisce l'amicizia tra i due e si parla di una sorta di altalena, perché quando Gianni Morandi esplose Dalla ancora stentava ad affermarsi, e poi viceversa. Poi dopo tu lo racconti anche bene nel libro, la gavetta, chiamiamola così, di Lucio Dalla fu piuttosto lunga. Molto lunga, tanto è vero che Lucio, durante tutti questi anni che vanno da quando ha iniziato a cantare, cioè nel 64, fino all'exploit di Gesù Bambino nel febbraio 71, tutta questa gavetta con un insuccesso, un costante insuccesso discografico, pesava molto a Lucio, che più di una volta ha pensato anche di mollare, di piantar lì. C'è una canzone che rappresenta bene questo suo stato d'animo, che è del 67, che si intitola Lucio dove vai, col punto di domanda. Poi naturalmente a confortarlo c'era il consenso della critica, gli addetti ai lavori avevano avevano immediatamente capito che era un fenomeno assoluto, mai visto prima, per cui il successo del pubblico prima o poi sarebbe arrivato. La RCA è stata lungimirante, sono stati molto bravi a credere in Lucio, ad aspettarlo, e oggi non succederebbe una cosa del genere. Certo, era tutto molto più veloce, esatto. Tutto più veloce, con la fretta che hanno le etichette, le case discografiche di realizzare subito, di lanciare subito fenomeni poi brevissimi, fuochi fatui di artisti, perché poi durano una stagione, tanti di loro, magari molti di quelli che escono dai reality. Sì, da programmi come X Factor, esatto, come Amici, eccetera, poi dopo hanno magari una fiammata iniziale e poi spariscono completamente. Il contrario di Lucio. Lucio ha inciso parecchio in quel periodo, poi anche come sta tornando del resto adesso, che escono i singoli, no? Sta tramontando l'era degli album, perché Spotify sta uccidendo il long play, l'album, il CD. E anche allora, in quegli anni 60, andavano molto i 45 giri, se ne vendevano a caterva. E grazie proprio ai successi dei 45 giri, come quelli di Gianni Morandi, di Rita Pavoni, di Jimmy Fontana, eccetera, le case discografiche, RCA in testa, potevano permettersi il lusso di aspettare gli altri talenti, quelli più ritardatari, quelli più di qualità, se vogliamo, come Dalla, per esempio. Quindi c'è questo simpatico, come dicevi tu, questa simpatica altalena tra i due opposti, amicissimi da sempre e opposti nelle loro carriere musicali e discografiche. Gianni Morandi e Lucio Dalla. Poi, quando ha iniziato a imporsi Lucio Dalla, invece, cambiando il clima, cambiando il mercato, eccetera, con l'avvento del cantautorato, Gianni Morandi si era trovato spiazzato con la sua canzone melodica nella più perfetta tradizione italiana. Certo. Poi è tornato in auge ancora con lui e sono tornati in auge insieme. Questa è la cosa bella anche della loro storia. Nel tour dell'88-89, Dalla Morandi. La lunga gavetta di Lucio Dalla si è trasformata in un successo proprio grazie all'incontro con Paola Pallottino. Paola Pallottino, illustratrice, fino a quel momento non aveva mai fatto da paroliere. No, un esordio assoluto, una debuttante, una parvenue anche nel campo della musica, perché lei, appunto, come dicevi, faceva tutt'altro, e proprio però questa sua competenza, questa sua passione come illustratrice di fiabe ha reso la cifra stilistica dei suoi testi. I suoi testi sono testi diversissimi da quelli che si sentivano imperanti nel panorama musicale di quegli anni, testi appunto evocativi, visionari e molto suggestivi. Il primo a esserne suggestionato è stato proprio Lucio. Lei, in modo abbastanza casuale, attraverso un contatto con un amico comune, bussò alla porta di Lucio, gli telefonò il giorno prima, poi gli portò questi suoi primi testi. Lucio aveva capito subito che erano molto interessanti, però le chiese di portargliene altri. Lei ne aveva tantissimi, perché si dilettava a scrivere quelle che lei chiamava poesiole, che invece poi si rivelava, per la metrica già perfetta che avevano, erano già di per sé delle vere e proprie canzoni. E Lucio ci mise sopra la sua creatività, la sua fantasia melodica e armonica, e nacque il primo brano nell'aprile del 70, fu pubblicato Orfeo Bianco. Subito dopo anche si affiancò anche Africa, e queste due canzoni sono le prime due a comparire anche in un long play, che è Terra di Gaibola, uscito nel giugno del 70. Poi il resto delle loro altre canzoni sono uscite tutte accorpate, tranne due, nell'album Storie di casa mia. In mezzo, naturalmente, c'è l'exploit di cui avevamo già parlato prima, accennandone, 4 marzo 43. Che esatto. Ha tutta una storia, tutta da raccontare, tutta particolare, anche misteriosa. Non voglio anticipare troppo, perché poi le persone devono leggere anche il tuo libro, insomma. Però c'è un elemento che mi ha colpito molto, che tu lo scrivi nel libro, e secondo te spiega un po' anche perché questo sodalizio artistico ha funzionato, e cioè il fatto che sia Lucio Dalla che Paola Pallottino erano orfani. Sì, questa è una cosa che molto molto sottotraccia, molto sottile. Vabbè, Lucio, come è noto, aveva perso il padre che aveva solo 7 anni, quindi non l'ha praticamente quasi nemmeno conosciuto, ne ha pochissimi ricordi. Un ricordo l'ha messo da par suo, col suo modo così, anche se vogliamo, ironico, l'ha messo in Come profondo il mare, quando parla di quel babbo che era un grande cacciatore di quaglie e di fagiani, e evocando il fatto che fosse il signor Giuseppe Dalla, fosse il direttore del tiro a volo di Bologna. Ma in effetti la mancanza del padre è stata lancinante, un'assenza che certamente ha condizionato molto Lucio, che tra l'altro, essendo figlio unico, aveva solo la madre come punto di riferimento genitoriale e familiare. Paola Pallottino invece ha avuto una vicenda diversa: la madre lei ce l'aveva, ma era molto malata. Così successe che tutta la sua infanzia e la prima adolescenza, fino ai 15 anni, Paola la trascorresse separata dalla mamma. La famiglia fu divisa, rimase con la mamma e con una governante il fratello maggiore di Paola, e Paola con l'altra sorella Gaia andarono invece a vivere con la nonna materna, quindi la mamma di Massimo Pallottino, il grande fondatore della moderna etruscologia, grande archeologo, per cui Paola Pallottino anche ha vissuto un'infanzia anche molto diversa da quella del proletario Lucio, diciamo così, vivendo invece in un ambiente, Paola, di alto rango, con frequentazioni importanti, accademici, intellettuali, eccetera. Ha fatto un percorso totalmente diverso, si sono incontrati poi attraverso l'incrocio misterioso della musica. La loro collaborazione, la collaborazione tra Lucio Dalla e Paola Pallottina, è durata alla fine appena un paio di anni, con 8 canzoni, ma in realtà c'è una nona di cui tu parli nel tuo libro. Sì, che svelo e racconto nel libro. Si tratta di una canzone intitolata La ragazza e l'eremita, di cui c'è una versione pubblicata nel 94 con la musica di Angelo Branduardi, il testo di Paola Pallottino. Successe che Branduardi voleva per quel disco Domenica e Lunedì avvalersi di testi che non fossero solo della sua bravissima scrittrice di testi Luisa Zappa, che è la moglie di Branduardi, ma voleva attingere anche ad altre menti. Chiese a Paola Pallottino, memore del Gigante la bambina, che era una canzone che l'aveva colpito molto a suo tempo, chiese a Paola Pallottino dei testi. Lei le dette un libretto con una raccolta di tutti i suoi testi. Lui pescò Giovanna d'Arco e La ragazza e l'eremita. Paola gli disse subito: guarda che questa canzone prima di te l'ha musicata 25 anni fa, ovvero mezzo secolo fa, Lucio Dalla. Quella canzone però non è mai stata pubblicata, io l'ho potuta sentire perché Paola Pallottino la conserva su una musicassetta registrata da lei a casa di Lucio nel 70, presumibilmente, il giorno ovviamente non se lo ricorda nessuno. Lucio canta questi versi accompagnandosi al pianoforte ed è un pre-provino, perché poi dopo c'è un provino registrato regolarmente in sala di incisione ed è in possesso della Sony Music, che detiene tutto il catalogo di Dalla, per cui può darsi che prima o poi, anzi è già stato annunciato che vedrà la luce, ecco, non si sa quando, ma vedrà la luce. Intanto io ho il privilegio, ritengo veramente tale, perché mi sono emozionato molto ad ascoltare questa canzone, ho il privilegio appunto di raccontarla nel libro. Certo, la racconto a parole, che è diverso dall'ascoltarla, però intanto è un antipasto. Esatto, un antipasto, infatti ci hai fatto venire l'acquolina in bocca. Ovviamente non possiamo raccontare tutto il libro in pochi minuti, abbiamo già detto molto, ma tantissimo ancora ci sarebbe, quindi intanto Massimo io ti ringrazio. Sì, ci sono poi tante testimonianze di Gino Paoli, che è stato il talent scout di Lucio, di Arbore, di Maurizio Vandelli, di Ron, di Vince Tempe, che racconta come è nata una canzone che poi è stata la prima canzone del primo album Dalla Roversi. Sono tanti aneddoti, tanti retroscena che grazie alle testimonianze dirette ho potuto ricostruire. Allora io ricordo a chi ci ascolta che il libro si intitola Dice che era un bell'uomo, il genio di Dalla e Pallottino, scritto da Massimo Iondini, che è stato al telefono con noi, edizioni Minerva. Grazie mille Massimo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio.